Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Non sempre chi si incontra in treno va da qualche parte. Molte volte, e questo mi sono abituato a capirlo, scappa da qualche parte, nel senso che non sempre è un viaggio di avvicinamento, ma molte volte è più importante quello che ci si lascia alle spalle rispetto a quello che si andrà a incontrare. Negli occhi di questa ragazza che ho di fronte, devo dire, colgo entrambe le sensazioni. Lei va verso qualcosa, da qualcosa è fuggita, e qualcosa porta come rimpianto, e qualcosa probabilmente conserva nella sua memoria profonda e lo ha sicuramente trovato in uno dei suoi viaggi di andata, di ritorno. Non sono io a dirlo, ma sono io a fare le domande. Tu per cosa avevi studiato? Per fare cosa? Radio. Vuoi fare la radio? Sì. E quindi da Milano poi mi sono trovata catapultata in Puglia. Prima ero a Milano, esattamente un anno fa. Ma era la tua zona d'origine, i tuoi parenti venivi dalla Puglia te? Sì, però avendo vissuto a Roma e poi anche a Milano, cioè non mi aspettavo, ecco, di ritornarci, cioè proprio no. È venuto a mancare mio zio un anno fa e da un anno io mi trovo qui. Fammi capire, tu fai parte di quel genere di persone, tra cui anche io devo dire, che partono dalla loro provincia d'origine pensando che mai più ci tornerebbero, perché quello significa doversi assoggettare a delle linee di famiglia, di tradizione culturale. Insomma, chi se ne va dalla provincia lo fa per fare un salto definitivo, così pensavi te? Sì, a 15 anni sì, adesso a 35 no, le cose sono un po' cambiate, però sì, all'inizio si parte comunque con l'aspettativa di allontanarsi, come detto, da una determinata cultura che non mi rappresenta. Tu eri partita molto giovane da casa? Sì, 15 anni. Cioè a 15 anni hai lasciato, e cosa ti lasciavi dietro? Anche i genitori oppure soltanto parte? Ah, i miei genitori mi hanno sempre incoraggiata ad andare fuori, sempre. Diciamo, è un punto di vista molto moderno, molto avanzato, che far andare via una figlia di 15 anni da casa verso un'altra vita. Quindi erano persone aperte. Ho fatto le superiori a Pescara, io da sola con altri ragazzi che invece facevano l'università, quindi era un po'. Ti sei avvicinata a tappe a Milano, poi hai fatto Puglia, Pescara e poi dopo sei andata verso Milano. Sì, ho fatto Puglia, Pescara, Milano, università, poi 8 anni di Roma e poi di nuovo Pescara e di nuovo Milano, tipo un cerchio. Nei frattempi come tenevi i rapporti con la terra d'origine? Ogni tanto ci si tornava, no? È il Natale, magari la Pasqua. Cioè le feste comandate, il minimo indispensabile. Sì, oppure mi raggiungevano i miei, insomma, anche loro poi sono persone che hanno vissuto fuori, arrivi, quindi insomma. Beh, se no non ti avrebbero lasciato andare, penso. Non è, diciamo, nell'humus tradizionale medio dire a una figlia di 15 anni si può andare a studiare fuori, non credo che sia una cosa che a cuor leggero avrebbero fatto tutti, no? Questo dagliene atto. Sì, no, questo sì, però era anche molto responsabile. Vabbè, i pericoli del mondo, la gente cattiva, che vuol dire? Ci sono tante cose cui una famiglia palpita, penso, no, per la propria figlia. Sì, però diciamo non particolarmente, ecco, la mia non è esattamente una mamma del sud, una mamma chioccia, ecco. Vabbè, questo è stato un vantaggio. Quindi, sì, diciamo, tu per quanti anni sei stata lontana dalla terra d'origine, coltivando i pensieri, i progetti, le cose che volevi fare? Molti anni, molti anni, poi sì, ci sono state anche magari delle pause, magari c'è stato un anno di pausa in cui sono dovuta rimanere qui, insomma, però poi ripartivo. Adesso invece no, cioè adesso c'è una prospettiva completamente diversa. E provami a capire la scintilla, perché io immagino che tu abbia realizzato, concretizzato, allucinato, poi dipende dal punto di vista, un'idea di te che ormai avevi tagliato questo cordone con la terra d'origine, perlomeno tutte le tue aspirazioni, i tuoi sforzi erano, volevi fare radio, volevi fare un altro lavoro rispetto a quello che avresti fatto rimanendo a casa, quindi la tua testa era condizionata ormai per rimanere fuori. Sì, cioè la vita di città, non mi sono mai riconosciuta, mai pensato a famiglia, figli, perché qui si nasce con quest'idea di sposarsi, fare figli, cioè no, ero in un'altra situazione, la scintilla, diciamo, c'è stato il momento drammatico della malattia di mio zio che mi ha catapultata in un altro universo. Ma questo era uno zio che ti era molto caro, non era poi lo zio di solito? Era molto caro, non sposato, quindi come te, che io insomma diciamo ho assistito a tutta la sua terribile malattia fino al decesso. Ma sei stata chiamata da lui o è stato un tuo impulso? No, vabbè, non c'è bisogno di chiamate, cioè tutto, mio zio insomma ci sarei stata comunque per lui, ecco. Quindi con lui tenevi dei rapporti comunque anche a distanza? Certo, ma certo, lui, mia nonna, cioè mia sorella che è qui, insomma. Quindi non è, diciamo che non hai mai staccato, te hai semplicemente fatto una scelta diversa da quello che ti offriva il tuo territorio, rimanendo sempre una brava ragazza legata agli affetti familiari. Immaginavo diversamente, immaginavo un taglio traumatico, basta, non voglio vedere più nessuno. No, assolutamente. Quindi tu quanto tempo sei stata a assistere tuo zio? Qualche mese? Quanto è durato? Qualche mese sì, poi comunque avevo degli affari a Milano e dovevo ritornare su a lavorare fino a, diciamo, un tot di 6 mesi, sono rimasta su. Poi gli ultimi mesi della malattia sono riscesa qui e sono poi rimasta perché diciamo che c'è stato un passaggio di consegne, ecco. Una volta che lo zio era scomparso, non c'era più, in realtà non avevi altre ragioni per rimanere, avevi terminato, diciamo, la tua operazione di pietas familiare, di affetto, di restituzione a quello che ti ha dato tuo zio, potevi anche tornartene o c'era qualcos'altro che ti legava? No, c'è il territorio, c'è proprio la terra, quindi ci sono proprio appezzamenti di terra. Cioè hai sentito proprio un richiamo della terra, nel senso più letterario del termine? Sì, devo dire che ero stanca di Milano, non è che mi sia mai particolarmente piaciuta, io sono legata a Roma, la mia casa è sempre e sarà a Roma, quindi diciamo che ho trovato la cosa giusta nel momento giusto per andare via. E quando poi dovevo decidere se tenere questo pezzo di terra qui in Puglia, io ho deciso e ho detto sì. Pezzo di terra significa un piccolo, piccolo, grande, non so, un appezzamento da coltivare, questo significa? Sì. Proprio la terra nel senso vero della parola, sì, la terra. Io coltivo grano e orzo. Ma questa l'hai ereditata da tuo zio? Sì. Quindi è l'ascito che ti ha lasciato tuo zio, è stato quello di un passaggio di testimone a tutti gli effetti. Sì, e c'era la domanda, vuoi tu prendere questi pezzi di terra, sì o no? E io in quel momento della mia vita ho detto di sì e sono felice adesso a distanza di un anno di aver detto sì. E beh, guarda che è un passaggio visto da fuori, poi non so la sfaccettatura delle mille ragioni, è una scelta difficile ma anche singolare, perché una persona che vive in un altro ambiente, che ormai si è riprogrammata a fare un'altra cosa, tornare a fare una cosa così specifica e anche così arcaica, così lontana comunque da ogni realtà possibile, lavorare la terra. Tu sei un'imprenditrice o proprio una coltivatrice diretta? No, adesso sono un'imprenditrice agricola. Ma è molta questa terra? È tanta? Un po'. Quindi è un bel impegno, non è l'orticello da coltivare, proprio un bel impegno. No, è un bel impegno, però. Sì, è un bel impegno, ma io non sono sola. You keep dreaming and I'm scheming, yeah, you're doomed. You're a poison, and I know that it's untuned. All my friends think you're vicious, and they say you're suspicious. You keep dreaming and I'm scheming, yeah, you do. I feel like I'm drowning. Just for you, I don't know what the hell you gonna do when your looks start depleting and your friends all start leaving. You're so plastic and it's tragic just for you. I feel like I'm drowning. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Quando arriva la cassa integrazione, dove ritiro i buoni per fare la spesa? Posso sospendere il mutuo e le rette dell'asilo nido? Posso revocare il contratto con il catering del matrimonio? Il coronavirus ha mandato in crisi tutti gli italiani. Mutuo, affitto, bollette, rate e persino la spesa quotidiana per migliaia di persone sono diventati un incubo. Parte così Homo Covid, lo sportello aperto agli ascoltatori che troveranno le risposte di cui hanno bisogno sul sito di Radio 24, in collaborazione con consumerismo.it. Metteremo insieme i vostri quesiti per dare una risposta unica alle domande di tutti. Un prontuario per famiglie e consumatori, lavoratori, liberi professionisti, commercianti e imprenditori. Un canale a cui affidarsi per cercare il supporto necessario ad affrontare una delle crisi più gravi mai vissute prima dal nostro paese. Scrivete a duedidenari@radio24.it e redazione@consumerismo.it. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Qual era la tua vita prima rispetto a quella che fai adesso? Dimmi tutti gli elementi che qui non trovi assolutamente nel tuo territorio ritrovato, di origine ma ritrovato. È completamente diverso, non ci sono aperitivi, cioè sì, ci sono aperitivi, però non c'è il teatro, non c'è il cinema, non ci sono grossi appuntamenti per single. Io sono comunque una persona, una ragazza single di 35 anni in un paesello sperduto. E quindi o ti sposi un locale o te ne stai sola, non c'è alternativa. Ma sono già tutti sposati. Cioè, quindi la tua è stata una scelta monastica oltre che una scelta di cambiamento. E ridi, sei contenta? Sei contenta? No, sono contenta, perché dico sempre che la mia quarantena è cominciata un anno fa, quindi ormai io sono parecchio allenata, anche agli sguardi, perché comunque quando poi vai in campagna e sei una donna tutti ti guardano un po' così. E poi una donna sola, figurati. No, vabbè, ho gli amici. Però sì. Gli amici sono mezzi parenti, gente di famiglia, come cugini. No, gli amici sono amici, amici sposati con molti figli, quindi io sono una zia di tanti bambini. Sì, ma anche vista come una possibile rovina famiglie, visto che sei single. Eh no, come no, non negarlo. No, questo no. Sì. Questo no, siamo amici. Ma qualcuno alla fine si chiederà come accade nei paesi. Ma questa perché non si sposa, perché non c'è un uomo? Certo. Mia nonna di continuo, quando ti sposi, perché non ti sposi? Ma dove lo trovi? Il possibile marito, diciamo nella loro logica, dove te lo trovi in quel momento, in questo frangente? È difficile, proprio... Devi andare dal prete come Alberto Sordi nell'immigrato in Australia, che devi fare? Che fai? Ma quali sono i canali di approvvigionamento di compagnia di amicizia, di affetto, di amore, di avventura? I tuoi coetanei che fanno? Li si sposano? I miei coetanei sono già sposati con 2-3 figli. Però vedi che adesso riemergono le ragioni per cui te ne eri andata. Ritoriale. Cioè o fai la moglie o niente, o zero. Sì, no. Però, facciamo una valutazione, diciamo, dal punto di vista, diciamo, della sicurezza economica, un passo avanti l'hai fatto, la terra da sicurezza con tutte le difficoltà, sì, le angustie, sì. È la roba, che non avevo. È la tua, quindi lavori, finché lavori di fame non muori, ecco, diciamola così, forse sì, non diventerai ricchissima, ma di fame non muori. Di fame non muoio, io qui non devo pagare un affitto, non devo condividere casa con altri coinquilini sgangherati, ho un'entrata. Avrei anche, diciamo, starei anche in un posto rispetto a un appartamento a Milano, un posto, una casa stupenda, molto molto, sì, diciamo che fai la gentildonna di campagna, ecco, diciamo, sì, questo. Io qui faccio il feudatario. Vabbè, ma mi hai detto niente. Sì, su questo sì, però sai, è come il patto di Mefistofele, come il ricatto della sirenetta. Sì, adesso c'è una bella casa, c'è tutta l'area che vuoi, sì, tutti i prodotti sani della terra che vuoi. Una vita bella, sole, campagna, valori, natura. C'è sempre, sì, un prezzo da pagare. Sì, il prezzo è la condanna alla castità e alla impossibilità di avere relazioni. Cioè tu non puoi abbracciare una persona che non sia un parente, una nonna, uno zio, un nipote e via dicendo. Sì, diciamo che il mio congiunto attualmente è in un'altra regione. Ah beh, Pasquale, lui non si può avvicinare saltuariamente, o anche questo nei codici locali è proibito? No, questo è molto difficile, per lavoro, per adesso quarantena, insomma, non. Ah già, adesso sì, anche quello. Diciamo, sì. Ma diciamo, in una condizione di normalità generale, avere un fidanzato in un'altra regione ti viene a trovare ogni tanto, è ammesso o questo ti coprirebbe di onta? Sì, assolutamente, però io adesso non ho una relazione stabile, quindi non ho questo. Può essere manco ti interessa avere una persona dentro casa tutto il giorno. No, io cioè, il prezzo che io ho pagato, diciamo, andando via da una città che comunque poteva offrirti, non si sa che, perché alla fine secondo me. E anche Milano si può offrirti fino a un certo punto, c'è anche tantissima aria fitta. E era la serenità e la tranquillità. E quindi io avevo bisogno di stabilità dopo una vita comunque da zingara girovaga. E io avevo bisogno di stabilità, di un'entrata fissa, seppur minima, ma fissa. E a me mi ha detto niente, è lo scopo di ogni essere umano l'autosufficienza economica. Per adesso io sto bene così, lavoro anche, diciamo, con un'azienda di amici, mi occupo della parte social, quindi ho, diciamo, il mio e un'altra piccola entrata, io sono contenta così. Però vedi comunque, una frangia del tuo lavoro continua ad esserci, un prolungamento, una propaggine. Sì, il prolungamento di Milano, sì. Diciamo che... Tu hai porti una competenza in più, sì, che magari è più difficile trovare nel tuo territorio. Sì. Quindi darai anche alla tua attività, probabilmente appena possibile, una veste diversa, inventerai delle maniere per proporre i tuoi prodotti, per venderli, che gli altri magari non hanno avuto possibilità di studiare, di capire, di immaginare. L'immagine diversa. Ti è mai venuto in mente, ci voglio fare un'azienda, che ne so, digitalmente prolungata attraverso una possibilità di farmi conoscere, fare dei prodotti particolari? Hai provato a mettere una aggiungere qualcosa alla tua esperienza rispetto a quella che è il solco della tradizione che trovavi già fatto? Tuo zio l'aveva già condotta probabilmente in maniera egregia. Sì, però diciamo non è esattamente un'azienda, cioè qui funziona molto il discorso cooperative, quindi tu prendi il tuo prodotto e lo vendi ad una grande cooperativa. Eh già, perché grossa poi... distribuzione, me l'hai detto, grande distribuzione. Sì, sì, c'è tutto un discorso, quindi... Io alla fine non... Quindi è anonimo il tuo prodotto, porta risorse al prodotto che poi sarà il brand che lo metterà nei supermercati. Sì, ecco. Il mio grano viene comprato da un produttore di pasta, per esempio. Ah, ecco, sì, quindi non... scompare la specificità del tuo... Sì, però questo da un certo punto di vista ti dà sicurezza che lavorerai sempre, però ti toglie una possibilità di espressione fantasiosa. E quello che vedo, ti mancano... comunque una vita relazionale a cui eri abituata, avevi diritto, ti manca la gratificazione della particolarità del lavoro, perché tu, se studiavi per fare radio, per fare comunicazione, volevi un lavoro che ti desse qualcosa di più oltre il semplice mantenimento. Quella la parte creativa l'ho trovata in un'altra azienda, in un'azienda di amici, un'azienda biologica, e io lì vado a fare tutta la parte creativa. Gli curi il brand, li fai, questo me lo immagino. Sì, faccio tutta la parte social. Diciamo che la tua attesa è soltanto una direzione, che trovi un meccanismo per cui anche un po' di vita sociale che sicuramente prima o poi ti peserà nel suo mancare possa essere ricostruita. Magari potresti inventarti tu dei sistemi di trasferimento, transumanza di esseri umani per vedere anche facce diverse, non lo so. Però non mi preoccupo di tutto questo, perché nella mia vita nulla è stato fisso per più di un tot di tempo. Quindi so che ci sarà un momento in cui anche questa situazione cambierà. Non so come, ma cambierà. Beh, molta fiducia, quasi una fede nel benefico destino che ti dà possibilità di avere delle biforcazioni di percorso che puoi scegliere. Questa è una bella cosa, perché non è che tutti ce l'abbiano. Ma perché è inutile tanto programmare questa ansia spasmodica di programmare, poi alla fine programmi e boom, tutto può cambiare, tutto può essere cambiato da altre persone. Prima che entri nella categoria di zitella infrequentabile anche alle tue latitudini, dai, un po' di tempo ce l'hai ancora. Ma esiste una rosa di possibili, diciamo, candidati? Certo, trovarli non sposati e non impegnati è difficile, però. No, vabbè, cioè, se non ti vesti in un certo modo, se non fai determinati percorsi, sei inevitabilmente una mina vagante. Quindi... Ma io penso, guarda, adesso lo dico per la mia conoscenza della provincia che ho, le tue peggiori nemiche saranno proprio le tue coetanee, diranno questa che è venuta a fare, che si crede d'essere. No, posso dire questo, qui il peggio del peggio lo danno gli uomini. Sì, no, figurati, interessante. Perché lo danno gli uomini? Fammi capire. Perché sono vanitosi e vogliono stare al centro dell'attenzione per forza. Vabbè, le mamme l'hanno abituati a essere i coccolini di famiglia, quindi. Sì. La donna comodino, per scelta territoriale e per tradizione, non è una donna sottomessa, è una donna che ha capito i meccanismi, sa quello che vogliono gli uomini, poi sotto li manovra lei. Queste cose da maga non le si fa. Lo so, bisogna averci avuto le mamme, le nonne che te le insegnano, le zie, no, come fai? Ci nasce. Le compagne, ci devi nascere, tu sei scappata su. Cioè, per fare la donna comodino consenziente e tutto sommato capace manovratrice poi degli uomini che pensano di essere al centro d'attenzione, bisogna studiare. Tu invece te ne sei andata nel momento in cui dovevi studiare queste cose. Sì, no, ma neanche mia mamma è così. Certo, se no non ti lasciava andare anche, via. Anche mia nonna è così. Sì, ma tu vieni già da un ramo di famiglia che sarà stato considerato di pazzi, perché già il fatto stesso, tu immagina alle tue spalle quando sei andata via da 15 anni da casa, che avranno detto: pensa a quella, fa andare via la figlia a 15 anni. You string me along, my friends say it's wrong, they tell me I'm crazy. I'm reading the cards and asking the stars, the outlook is hazy. Save me for a rainy day. I'm tired of the fight, I turn out my light. You know I'm not sleeping, I'm walking the line, I just need a sign. You call me up weeping. Whoa. Say yes, I can't say no, and that makes me crazy. You never say stay, I never can go away from you, baby. Whoa, oh, never mind the weather. Whoa, as long as we're together, you say. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Ciao, sono Sebastiano Barisoni, Radio 24. E questa volta non sono solo. Ciao, sono Anna Pettinelli, RDS. Ciao, sono Linus, Radio DJ. Ciao, sono Marco Galli, Radio 105. Ciao, sono Andrea De Logu, Rai Radio 2. Ciao, sono Angelo Baiguini, RTL 102.5. Ciao, sono Mary Cacciola, Radio Capital. Ciao, sono Fernando Proce, R101. Ciao, sono Paoletta, Radio Italia, solo musica italiana. Ciao, sono Pippo Pelo, Radio Kiss Kiss. Ciao, sono Matteo Campese, Radio Freccia. Ciao, sono Kay Rush, Radio Monte Carlo. Ciao, sono Albertino, M2O. Ciao ragazzi, sono Ringo, Virgin Radio. Ciao, siamo le radio italiane, tutte insieme per costruire la più grande avventura del 2020. I love my radio. I love my radio. Da lunedì 18 maggio, tutte le radio unite per l'Italia. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Mi disse un amico mio, che proprio delle tue parti, mi disse: il bello è che noi nel nostro paese dice: non lo sappiamo, ma siamo tutti cornuti, perché ognuno pensa ad essere l'unico, perché lui si approfitta delle mogli o c'ha storie con le mogli degli amici, ma gli amici fanno le stesse cose con tua moglie. Quindi il consiglio che mi dava, dice: guarda, se ti... ero giovane, sposati una donna brutta, almeno non ti mette le corde. Sarà il consiglio. Ci ritrovi qualcosa di quello che ti ho detto nell'area generale? Sposatene sì, una brutta, sì, come ho fatto io. Aveva una moglie terribile, infatti. Cioè, così almeno non ti mette le corna. Non lo so, qui è tutti contro tutti, è tutti con tutti. Qui adesso, insomma, ci sono anche dei... i tempi sono moderni anche qui, per certi versi. Proprio per il fatto che magari loro hanno si sposano in tenera età, tipo 20-25 anni, e fanno figli... Alla mia età c'erano molte ragazze madri, poi alla fine ci si separa. Ma ormai sei uscita dall'età papabile per un matrimonio? O ancora c'è dentro? Ci stai dentro per qualche anno? 2-3 anni ancora forse? Non lo so, sinceramente, non so come... 35 anni già cominciamo a essere a rischio, diciamo, sì, nell'età. Qui sì, sicuramente. Oltre. Sì. Sei già oltre. Siamo oltre, insomma, ma non esiste proprio. Cioè, io sono venuta qui per stare in pace, quindi non voglio problemi. Vabbè, sei in pace, hai raggiunto la pace... Devo dire, è una condizione invidiabile, non esiste compulsiva maniera di essere sempre al centro di mille relazioni che ripaghi il fatto che hai raggiunto la pace. Poi tu fai sempre in tempo a farti un viaggio, a farti un giro. Esatto. Conclusione, visto che tu non vuoi fare progetti, non vuoi mettere ipoteche sul futuro, ma no, conoscendo te stessa, a parità di situazione, nel senso, fa conto che non cambia niente adesso da qui all'eternità, quanti anni ti dai di resistere in queste condizioni? Pochi. Sei arrivata, ecco, sì. Per prendere boccate d'aria, ecco. Comunque tu stai mettendo da parte la tua riserva di felicità. Quando potrai cominciare a girare nuovamente, sì, avrai il gruzzoletto, potrai andare, sì, in paesi molto accoglienti, dove sarà facile per te conoscere persone, magari anche trovare l'uomo della tua vita e portartelo a casa. Come quando uno trova un porto sicuro è molto difficile pensare che possa togliere gli ormeggi quando attorno il mare è molto tempestoso. Ti auguro buona permanenza e buon proseguimento del viaggio. Ciao. Grazie Gianluca. Confesso, non mi era mai capitato di vedere un passeggero accanto a me nel treno con un cesto, con dentro un serpente. Sì, un bel serpente colorato, dormiva tranquillo, figuriamoci. Nemmeno me ne ero accorto, mi sembrava un giocattolo, qualcosa che magari portava il suo bambino. No, proprio un bel serpentone. E non posso fare a meno di domandare al Signore cosa mai facesse nella vita. Non so, l'incantatore di serpenti? No, fa il veterinario. Se uno vuole viaggiare con un rettile in treno, come lo può trasportare? Non ci sono in realtà delle metodiche approvate, nel senso che la cosa migliore sarebbe averlo in un qualcosa di piccolo, in modo tale che sia meno stressato possibile, senza cibo, senza acqua, tanto comunque non hanno. A te ti capita di portarti tipo il serpente in giro qualche volta? Ma io sono andato più volte a delle mostre scambio e facciamo parecchi chilometri, perché la più bella che c'è in Europa è Adam, che è vicino a Dortmund, e sono 1000 chilometri in andata e 1400 al ritorno. Per e sta povera bestia di serpentone te lo porti per tutti questi chilometri? Sì, oddio, poi ma c'è un porto, sempre cose più piccole per un portantino tipo quello dei gatti con la gabbiettina. No, guarda, in realtà tipo, hai presente quelle per il cibo, delle mozzarelle con in di polistirolo? Sì, coi bentate, con dentro uno scaldotto. Se viaggi in macchina a 23-24 gradi, che siamo dobbiamo metterci i buchi per farlo respirare, però. Bravissimo, sì. E che gli si dà da mangiare durante il viaggio? Topolini? No, assolutamente no. Frequente, comunque possono stare giorni senza mangiare. Da quel lato lì sono, tra virgolette, comodissimi. Cioè, non devi scendere a fargli fare la pipì e le sue cose, no? No, è la cosa più bella. Sì, si scende. Scendo io per fare la pipì, ma a loro non serve. Ma i serpenti sono perfetti, animali perfetti. Non c'hanno sono bisogno. Comodissimi, tu puoi andare in vacanza una settimana, gli dai da mangiare prima, torni e sanno meglio di prima. Beh, questo è bello. Caspita. Però vuoi mettere il piacere di portarselo dietro al mare e in montagna? Anche quello secondo me è solo esibizionismo. Che tra l'altro era capitato qua un paio di volte in qualche locale che faceva il classico show con il serpentone, col pitone e la pornostar, da cicciolina in poi, un classico. Sì, assolutamente sì. E questi erano stati bloccati dall'ASL, della perché dicevano che era un maltrattamento degli animali. Anche bisogna capire se il pitone da una parte e andava, procurato allarme dall'altra. Perché ovviamente c'è gente che ha terrore di queste cose, giustamente, per cui... Ma è pericoloso il pitone, metti caso che dal palco sfugge un attimo dall'attenzione della pornostar e va fra il pubblico, che può fare? Io sono stato morso da un moluro, che è un serpente, in quel caso era 3,5 metri, non mi ha fatto niente. Ma c'aveva veleno o l'ha morso soltanto? No, in Italia sono assolutamente vietati. Esistono dei serpenti che sono di libera detenzione, che si chiamano pistogrifi, che hanno un minimo veleno nei denti posteriori, devono morsicare più volte per far entrare, e comunque fanno poco. Tutti i velenosi sono vietati. Poi che ci siano o non ci siano, con un altro discorso, in Germania... Ma lei risulta che qualcuno li tenga, serpenti velenosi? In Italia? Sì. Ma quali sono i segreti? Black Mamba, quelle cose lì da film di Tarantino? Cobra, oppure tutti i serpenti a sonagli. Cioè, se io volessi, per assurdo, fossi... Se ne va in Germania... Voglio comprarmi un cobra, un serpente a sonagli, dove vado? Una qualsiasi mostra scambio in Germania. E se mi compro un serpente a sonagli? Assolutamente sì. Che è letale. In Germania sono di libera vendita. Che è letale. Può essere letale. In Francia, che hanno... dove c'è un... regole, secondo me, anche migliori, nel senso che ognuno può tenere quello che vuole, però deve fare un corso e dimostrare che può tenerlo. La gente intorno deve dare il consenso perché lui li tenga, ed è tutto fatto in maniera giusta. Secondo me il fatto di poter lasciare la libertà sarebbe la cosa migliore, anche perché ci sarebbe banalmente un registro, e se adesso qualcuno tiene in contro le leggi un velenoso gli scappa, la prima cosa che fa è star zitto. Se ci fosse un registro e uno avesse un animale anche pericoloso gli scappasse, la prima cosa che farebbe sarebbe... Ma si può mettere un numero di matricola al serpente, un piastrino, qualcosa? Si no? Può mettere un chip. È un chip. Si mette col cane e si possono mettere... Ma è tracciabile, no? Uno lo vede dove sta il serpente se scappa, sarebbe importante. Ah, mica tanto, no. Anzi, va dentro nei buchi, poi è difficile trovarlo. Beh, però almeno oddio, il chip di dice la zona. Quelle cose piccole, cose grosse oggettivamente sì, però sono assolutamente innocue. Ma io se mi un cobra non lo posso tenere in casa, è impossibile. Nemmeno se faccio una riunione al condominio dico lo posso tenere, no? Ma infatti, no, assolutamente no. È illegale per la legge 150, che era quella dei pericolosi. Hanno messo dentro... Oddio, è stata fatta una legge un po' come... al solito, è stata fatta ambigua. Un po' così, sì, no, neanche ambigua, hanno semplicemente messo dentro degli animali senza conoscerne le caratteristiche. Le dico una cosa banalissima sui varani: uno dice varano, pensa subito al varano di Komodo, certo. Che sono 3,5 metri, c'è il varano sbrevicauda o lo storri, che sono animaletti di 20 centimetri, però nella legge c'è scritto varani, di conseguenza tutta la famiglia è stata esclusa dalla cosa. Il pitone reticolato non è detenibile in Italia, il moluro, che è molto simile, è detenibile e probabilmente non lo conoscevano. I varani non sono detenibili, i teidi, io ne ho una coppia, sono 1,30 metri di lucertole, sono detenibili. Ma lei dentro casa c'ha due lucertoloni da 1,5 metri? Io ho due lucertoloni di 1,5 metri. Ma cosa fanno? Cosa fanno? Camminano per il salotto? Viaggiano? No, un terrario di 2,5 metri per uno per uno. D'estate vanno un po' in giardino. Nella stessa stanza c'è anche un pappagallo che ci sta solo di notte. E poi nel resto della casa ho dei gatti nudi. Pur avendo la casa piena di animali non ho un pelo per casa. A gatti senza pelo? Allevo gli sphinx, che sono i gatti senza pelo. Che fanno impressione. Non vanno nella stanza del tegu, perché comunque lui quando li vede... Se li magna, se vuole. Qualche pensierino se lo fa, sicuramente. E invece ai serpentoni, ai lucertoloni cosa gli dà da mangiare? A lucertoloni do pezzetti di cuore, trita, frutta, verdura, tutte queste cose. Sono il consiglio da veterinario, che è quello più spassionato, che si dà adesso anche sui serpenti, quello di non dare vivo. Il dar vivo perché si abituano tranquillamente al morto. Se comincia a dargli la roba viva gli fanno un pensierino, cioè due bestie ma di 1,5 metri. In realtà se vedono qualcosa di vivo attaccano. Sì, però le faccio loro, un esempio nella mia io dormo tranquillo nel mio letto, a casa ho due draghi da 1,5 metri, si mettono d'accordo, si sveglia la notte, mi cominciano a mangiare dalle dita dei piedi, si fanno una mangiata. Quelli dormono tranquilli tutta la notte. Sono animali parlo dei tegu adesso, che quelli che ho detto prima, sono animali un pelino più in alto dal punto di vista dell'intelligenza. Sono più intelligenti, sì. Assolutamente sì, rispetto ad altri, per carità. Poi, si affezionano, ovvio, ma... ci si può conversare, no, ma avere interscambio. Se guarda su YouTube, su questi c'è gente che comunque li tratta come dei cagnolini. I varani, anche lì dipende un po' dalla specie, perché poi sono molto diversi l'uno dall'altro, però ce ne sono alcuni che si comportano come dei cagnolini. Poi, per dirla, a me sono entrati i ladri in casa, probabilmente gli ha fatto scappare il pappagallo. Al pappagallo scacciato? Secondo me sì, perché non sono arrivati in camera. Noi dormivamo, ci siamo accorti la mattina. Loro sono entrati, so che hanno aperto la porta dei tegu e del pappagallo. Beh, vedo due lucertole da un metro e mezzo. Il pappagallo, quando vedeva la luce, diceva ciao, però con una voce molto roca. E secondo me se la sono fatta sotto e sono scappato. Ciao, sento così. Vedono i draghi, scappano a casa dei mostri. Ah sì, almeno quello, almeno qualcosa di mondare. Avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Lei fa il veterinario, quindi avrà una clientela. Sì. Che animali riportano? Di questo tipo o di tutti i tipi? Di tutti i tipi. A me è capitato banalmente, quello più strano, una ragazza piangente che doveva far sopprimere un ragno di 20 anni. Un ragno? Quello era il più particolare. Perché era invecchiato, non poteva più essere autosufficiente. Sì, perché ormai non si muoveva più, l'aspettativa di vita era quella. C'era l'artrite, poveraccio. Un ragno di 20 anni. Quanto era grosso sto ragno? Era, allora, quelli sono un 15 centimetri, un 20 centimetri di spalleg, cioè da zampa a zampa tirate. Ah, era una cosa terribile, una vedova nera, cos'era? No, la vedova nera è piccola, è piccolina. Queste qui sono, diciamo, delle tarantole, dai. La tarantola, quelle col teschio addosso, quelle lì? Sì, ci sono anche quelli. Quella dell'uomo ragno, tanto per capirci. Sì, dai, quelli lì. Sono tranquilli, quelli se ne stanno in una teca, lì stanno. Ma uno dove li compra quelli? La tarantola dove si compra? Allora, anche quella in Italia è un po' strana, nel senso che qualche prefetto ha dato la possibilità, qualcuno no. Per fortuna, almeno questo. Germania è molto libera, cioè se uno ha 18 anni può prendersi quello che vuole. Ma se alla dogana li trovano con una tarantola nello zainetto, che ti dicono? Ma la dogana, se passi dal Brennero, non c'è. Ah, ecco, perfetto. Quello lo fate, però ti dico anche dei velenosi, cioè fatta la legge trovata l'inganno anche qua. Ah, è vero, giustamente. E questo povero ragno lei l'ha soppresso poi? Guardi, era già... Fa porta male ammazzare i ragni, non è che porta male. Lo so, ma infatti poi probabilmente avrò avuto una brutta cosa io, però a parte che non mi piace sopprimere in genere, però diciamo che abbiamo la possibilità di farlo quando ci sono delle... Qua si fa un'iniezione di un farmaco. Anestetico? Per cui dormono, poverino, sono addormentati, si fa, e poi si fa un farmaco che blocca cuore, in questo caso cuore basta, altrimenti cuore, polmone e cervello. Oddio, io ci ho pensato, piuttosto che restare male preferirei fare una cosa del genere, però certo. Quella è un'altra storia. L'eutanasia al ragno, e poi se l'hai portato via la salma? L'hai portata via, sì. L'ha seppellita? Sì, giuro. Davvero, poverino, era molto, molto accorata. E piangeva. Giuro, sono rimasto anch'io. Beh, vent'anni si affeziona anche a una bottiglia vuota di Coca-Cola, certo, chiaro. Sì, ma a me è capitato anche con signori, sai, quando vengono, capita purtroppo nella professione, ripeto, a me non piace, però la soppressione è una delle cose che dobbiamo fare quando ci sono le cose da fare. Anche un cane che c'ha un problema grosso, neurologico, un tumore, cosa fa? Io ho dovuto sopprimerlo a luglio, non avevo niente da fare, non so. No, anch'io è successo del sopprimere un cane, è brutto, ma quando non cammina più, attacchi continuamente, no, sta male, non ha senso, soffre. Ma, tra l'altro per legge non possiamo farlo se non ci sono... come si dice, se le terapie funzionano, se ci sono delle cose da poter fare, non possiamo sopprimere. Certo, vuol dire che l'ultima spiaggia, certo. Sì, assolutamente sì, non è che uno si sveglia la mattina e sopprime il cane. Ma no, ma figuriamoci. Fortunatamente. Non ma nemmeno il ragno, poveraccio, una volta che ma in realtà no, è in casa di famiglia. Della vita in tutti i suoi... E quindi le cose strane quali sono state, diceva? Beh, ragno, colori, serpenti, pipistrelli qualche volta, anche quelli che magari trovati, c'è dei pipistrelli un po' più grossi che ogni tanto vengono. Quelli in casa si possono tenere un pipistrello, sì? Sì, alcuni sì. Si appendono al soffitto, sta lì, buoni. Sono sempre dentro nelle voriere, nel senso che comunque... Pensi solo che comunque loro fanno i loro bisogni attaccati a testa in giù, per cui non è bello pensarlo in giro. Ah, cascano dall'alto, cascano dall'alto e spruzzano dall'alto. Oppure, vabbè, da strani, a parte tartarughe più o meno grosse, che quelle ormai siamo abituati a vederle. Ma tartaruga tanto campa migliaia di anni, no? Alcune sì. Quindi non si può sopprimere. No, quella no, quella ci seppellisce tutti. È capitata con alcune che, guardi, da quando comincia la primavera cominciano ad arrivare quelle tirate sotto con le falciatrici. Allora ricostruiamo il guscio, cercando di mettere il carapace, cercando di mettere la bossa. Cosa fate con la vetroresina? Fate una cosa. Qualcuno ha cominciato anche con le stampanti 3D. Ah, glielo rifà un carapace esatto. Sì, anche se il gold standard adesso è quello di lasciare aperto, però ovviamente dipende un attimo da com'è la frattura. Però qualcuno ha provato anche con la stampante 3D, facendo anche delle belle cosettine. Ah beh, interessante, poi viene uguale praticamente, è una protesi totale. Sì, io l'ultima che avevo fatto così, gli avevo messo anche il 46 e poi uno strato sopra, e il cliente era contento. Era contenta? Eh sì, no, con Valentina si chiamava. Ma era uguale, diciamo, avete ricostruito anche tutta la forma esterna? No, non così, però l'avevo fatta in fibra di carbonio Kevlar. Ah, quindi è bellissima, è come una protesi futuribile, una tartaruga. Sì, assolutamente, ma quella era bricolaggio, oggettivamente. Il problema era stato i primi 3 mesi, che avevamo un sacco di infezioni, abbiamo tirato a posto, però poi ricostruire il carapace era bricolaggio. Ma quando la tartaruga è sfilata fuori dalla custodia, cos'è? È come un... No, non si può. Anche, perché è appiccicata. Formato dalle ossa della tartaruga. Ah, quindi è appiccicata, non si sta. Sì. Quindi sì, è un'operazione chirurgica proprio praticamente. Ma lì, ad esempio, in quel caso aveva rotto parecchio del carapace nella parte sopra, c'era stata da attaccare in qualche modo il bacino, però poi è andata avanti tranquilla, si è fatta il suo letargo, è campata ancora vari anni. Vabbè. È una tartaruga di 34-35 anni. In fibra di carbonio, è una tartaruga eccezionale. È velocissima poi. Immagino, ha acquisito aerodinamica senz'altro. Poi, assolutamente. Altri animali? I tauri dello zucchero. Sono marsupiali piccolini che saltano, volicchiano, tra virgolette, planano. E dove si comprano questi? In Germania? Questi anche in Italia, questi sono gli animali piccoli, faccio conto, un po' più piccoli in una cavietta di una però saltano. In India. E carinissimi anche. Dei cangurini in miniatura. Sì, per far parte di quello, però volicchiano, planano, sono carinissimi. Sembrano animali preistorici, sembrano allora, scusa. Oddio, alla fine riusciamo a vedere un po' tutto. In Francia mi è capitato con gli alligatori, che era carino anche con quelli. Ah, allora è vera la leggenda metropolitana della gente. Gli alligatori, no, questo è un ragazzo di Le Mans, che è un amico di Le Mans, che li alleva alligatori, coccodrilli e caimani. Ma quelli mordono io, l'alligatore stacca una mano. Quelli sì, i coccodrilli erano abbastanza nervosetti. Devo dire che l'alligatore, lui aveva una casa nella periferia di Le Mans con parecchio terreno libero. Qui c'è la palude dove stanno tranquilli questi. Quasi, lui aveva fatto una costruzione dove era dentro, lui entrava, chiamava l'alligatore, questo usciva dall'acqua, arrivava lì. Sono rimasto anch'io così. Io non mi fiderei tanto dell'alligatore. Io ci ho creduto, poi parlo poco francese, lui mi ha detto prendilo e bravo, e io l'ho preso, però poi ci ho pensato dopo. Cioè c'ha dei denti che fanno paura, io l'ho visti in Louisiana, sono spaventosi. No, sono bellissimi però, poi a me piacciono i rettili, per cui sono di parte, però. Ah, qui c'è questa passione per i rettili. Sì, ultimamente meno, perché mi sono andato sui gatti. Perché che non convivono, gatto e serpente no, non vanno d'accordo. No, per niente. Cioè il gatto tende ad attaccarlo, il serpente. Il serpente tende ad attaccarlo il gatto. Perché i gatti con le lucertole ne fanno strage, quindi immagino anche i serpenti. Sì. Però, vabbè, ho conosciuto la mia compagna, così, era una cliente, mi piacciono rettili anche lei, poi a un certo punto abbiamo cominciato con i gatti e siamo passati sui gatti. Ah, beh, ho capito. No, pensavo che. Dici, vieni a casa mia, ti faccio vedere i miei serpenti, ma è brutto, suona male, sì. Al posto delle vecchie farfalle. Certo, una collezione di serpenti. C'è un doppio senso osceno, veramente. Perfetto. E quindi siete passati su lei, dici, no, vieni a casa mia, ti faccio vedere le mie gattine. E ci siete trovati. Una via di mezzo. Ormai sì, intorno a quello. Vabbè, dottore, buon viaggio. Spero di incontrarla spesso con i suoi animali esotici, così getteremo il panico nel treno. Grazie, a presto. Grazie, buona giornata. Oh, sister, when I come to lie in your arms, you should not treat me like a stranger. I follow when I like the way that you act, and you must realize the day. A brother to you, and one deserving of affection, and is our purpose not the same on this earth? To love and follow is direction. Thank you. to knock on your door. Don't turn away, you'll create sorrow. Time is an ocean, but it ends at the shore. You may not see me tomorrow.